ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Oh, benvenuti a Dedicato. Oggi è il 1° maggio. Ma Scott, che stai facendo? Sto bevendo. Bevere, a bevere stai, vabbè, mascotte, è il 1° maggio, festa del... Sì, ok, ho capito, mascotte, ma che ti bevi, il vino? No, no, santa no. Pace. Allora, no. Mascotte, il 1° maggio, festa del lavoro, sei a casa da scuola, quindi... Sì, che bello, per i bambini, per i bambini ovviamente, cioè, questa è... Anche i bambini non lavorano! Per fortuna! Che bello. E poi non è vero, mascotte. Andiamo a scuola. No, ma non è vero, in alcuni punti del mondo purtroppo i bambini lavorano e come se lavorano. E punti del mondo non troppo lontani da noi, ti dirò. Quindi siete dei bambini fortunati che voi potete andare a scuola e non a lavorare. Vedi la vita com'è? Maligna è la vita. Comunque, mascotte, cosa ne pensi del lavoro, della festa del lavoro? Ne sai qualcosa? Sai perché si festeggia? Che non si lavora! Ok, certo, durante il 1° maggio non si lavora, ma sai perché? Perché... maggio 1887, in occasione... No, adesso no, non leggere cose... Nel 21 anniversario. Allora, lei tanto... Dell'entrata in vigore della Gimossa. Allora, mascotte, non puoi leggere a caso notizie da internet. Voi bambini fate un po' questo errore, leggere a caso, prendere le notizie... e sì, rielaborarle. Perché in pratica io mi chiamo Mascotte. Ma che bel nome che ti hanno dato i tuoi genitori, Mascotte ti chiami proprio. Sì. Ho capito. Bene, allora la festa del lavoro nasce in occasione... Nel 1988. Sì, nel 2067. Ma non c'è ancora! Numeri a caso, diciamo, il 1° maggio dell'86... erano successi 87. dei fatti nell'Illinois, a Chicago, ed erano successe delle cose importanti, sì. Dei lavoratori di una fabbrica che sono stati insomma attaccati dalla polizia, e sono successi fatti brutti, insomma adesso non sto a spiegarti nel dettaglio perché sei una bambina, pur se anche... Io a piccola, esatto, e quindi sei sempre la nostra mascotte, non sto andare nel dettaglio, ma da lì, da quel 1886 a Chicago, nacque questa festa del lavoro. Sì, si festeggia! Ecco, che però... Na, va bene, non hai capito niente, mascotte, non è proprio tanto gioiosa questa cosa, comunque va bene. Non si festeggia. Ok, mandiamo il primo brano, perché ovviamente è... Non mandiamo il primo brano. No, mascotte, i brani... Mandiamo il primo brano. Sì, hai finito? Forse. I brani di oggi sono tutti... con dei testi importanti riguardo al lavoro. So che non mi potete vedere, ma io sto ballando. Sì, sta ballando, non se ne può più. Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vincevano le elezioni. Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà. Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu, che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, macellai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai. E mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami, se vuoi a scorta i domiciliari, finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky, né Rambo, né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Che sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Per far denaro ci sono più modi. Potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio. Gli pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente. Sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe. Caparezza, sono un eroe. Mascotte, che pezzo. Caparezza sa sempre dire io sono un eroe. No, quella è non sono una signora. Non sono un eroe. E vabbè, però dicevo Caparezza. Ma perché mi deve sempre interrompere la mascotte? Stavo dicendo, Caparezza ha sempre ti le parole. Ti devo interrompere perché mi diverto. Ha sempre le parole giuste al momento giusto, Caparezza. Sì. Oh, bene. Adesso, mascotte, ci dici per cortesia cosa ne pensi della festa del lavoro o del lavoro anche? Allora, del lavoro penso che non lo vorrei mai fare, e lavorare a casa, perché poi devo alzarmi alle 8, andare al lavoro e poi mi è stanco e poi voglio fare e poi voglio dormire tutto il giorno. Ah, perfetto, già 10 anni, questa è la valutazione sul lavoro e voglio dormire. Il mio giorno preferito è il weekend. Ok, però mascotte, scusa, per esempio io faccio un lavoro che mi piace molto, non vorrei mai rinunciare al mio lavoro, ma sono fortunata perché sì, ma tu, l'ho scelto. Ma tu in... non dormi tutto le mattine fino alle 9:30? No, non dormo tutta la mattina. Appunto! Ok, però mascotte, il fatto di lavorare è anche avere la fortuna, nel mio caso, di fare un lavoro che mi piace tantissimo. Io e quindi voglio fare artista. Grande. Ecco, se tu riuscissi da casa. Ok, se tu riuscissi a fare l'artista sarebbe fantastico, no? Perché... o la musicista. E saresti una persona eletta, fra virgolette, elettrica. Cioè che fai un lavoro che ti piace, perché in molti vanno a lavorare perché devono portare i soldi a casa per mantenersi, mantenere la famiglia. Ma poi magari gli inizia a piacere il loro lavoro, alle persone che devono guadagnare soltanto per Sì, secondo me invece a molti non piace. In molti si svegliano la mattina, come dici tu, e non possono dormire quanto gli pare e vanno a fare una cosa che non gli piace. Quindi... A proposito, sonno. Hai sonno? Sì. Ok, mascotte. Sono svegliata all'8 stamattina. Ah, povera mascotte. Per andare a scuola. Ma se è la festa del lavoro oggi, a che scuola? Poi sei qui. Vabbè! Cosa scuoli oggi, non scuoli? Io scuolo ieri. Hai scuolato ieri. Ciao, mascotte. S'alza il sole sui monti e sono ancora a casa. Cala il sole sull'acqua e mi trovo nella polvere della strada. S'alza il sole sui monti e adesso sono a Torino. trovo solo come un cane in un angolo, dentro una mescita di vino. S'alza il sole sui monti e sono arrivato in Germania. Cala il sole sull'acqua e su una baracca disteso al buio, con un vecchio maglione addosso e una lampada che non funziona. S'alza il sole sui monti e mi trovo a Nanterre, periferia di Parigi. Cala il sole sull'acqua e sono con gli altri compagni a vegliare, un povero italiano, il mio amico Luigi. S'alza il sole sui monti e sono arrivato a Milano, città dell'abbondanza e dei miracoli e della Madonna. Cala il sole sui monti e non ho nemmeno la forza di guardarmi la mano. Trovo braccato nella campagna. Cala il sole nell'acqua e se qualche santo mi aiuta mi trovo alla fine in una grotta buttato. S'alza il sole sui monti e sono ferito a morte, ferito al petto e condannato. Povero operaio, povero pastore, povero contadino, s'alza il sole sui monti e sono morto e sotterrato. S'alza il sole sui monti e un altro al posto mio è già arrivato. Lucio Dalla e Roberto Roversi, ci tengo a dirlo, il pezzo è L'operaio Gerolamo e ci tengo a dirlo perché Roberto Roversi e Lucio Dalla lavoravano insieme in quella Bologna che oggi non c'è più per tanti buoni motivi, ma anche brutti motivi, quindi noi la ricordiamo sempre con gioia questa commistione di testi e musica tra Roversi e Dalla che hanno segnato un pezzo di storia musicale. E adesso torniamo alla festa del lavoro, al nostro primo maggio, e come sempre noi abbiamo i nostri supporter con Incursioni Radio e abbiamo chiesto a loro appunto cosa ne pensano del lavoro e della festa del lavoro. Iniziamo ad ascoltare anche le loro voci, oltre quella della mascotte, perché adesso la mascotte basta, la mascotte si è messa a dipingere, credo, quindi per un po' non penso che la risentiremo. Lavoro e sfruttamento, festa del lavoro, è una gran presa in giro ultimamente. Ma vuoi dirci perché? Perché ultimamente il lavoro è sfruttamento. Perfetto. E zero garanzie. Grazie. Io penso che festeggiare il lavoro è una gran cavolata, perché per i bambini il lavoro è non avere le madri a casa. Ok, grazie, però qui andiamo a intraprendere un discorso un pochino più complicato e ampio, che io capisco che voi bambini non conosciate ancora a fondo, ma le mamme a casa sono parte di un concetto un po' antipatico, nel io senso che io vorrei stare con te a casa. Sì, mascotte, bentornata. Sì, allora il discorso è, certo, anche noi mamme vogliamo stare a casa con i nostri cuccioli e accudirli, amarli e coccolarli il più possibile, ma le donne hanno ti lo stesso bene. Ma certo, anche io, però le mamme hanno lo stesso diritto di andare a lavorare degli uomini, dei papà. Sì. Ok, questo è sì, il tuo parere è questo. Sì, mamma, sì, perfetto. E quindi sì, mamma. Ok, mascotte, però capisci il discorso che sto facendo? La mamma a casa nel 2024 è un concetto importante da portare avanti. No, uno stereotipo, sì, va bene. Ok, mascotte, ho spiegato quello che devo spiegare, spero che anche il nostro amico abbia capito. Mascotte, dove sei? Io sono una bambina impegnata, eh! Ma dove Ciao. Sei? Ma perché vai via, mascotte? Ma... La vita piena di impegni ha la mascotte, ma pensa a te. Listen to the hard working people. Let's drink to the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a thought for his backbreaking work. Say a prayer for his wife and his children. Burn the fires and who still till the earth. Search a faceless crowd, a swirling mass of gray and black and white. They don't look real to me. In fact, they look so strange. Raise your glass to the hard-working people. Thank you. I Rolling Stone con Salt of the Earth. Ascoltiamo adesso alcune voci interessanti, direi abbastanza anche convincenti, sulla festa del lavoro, ma soprattutto sui lavoratori. Il lavoro è molto stressante. Perché? Ci dobbiamo alzare presto e quindi diventa molto stancante. Ma scusa, tu alla tua età lavori? A scuola? Sì, sì. Bra. A scuola. Però a scuola è già una cosa diversa perché ci divertiamo di più. Ah, ok, grazie. Perché c'è la ricreazione. Lavoro essere stressante. Io non so portare quando uscire a casa 6 mattino. Cioè, troppo lavoro. Fatto. Festa del lavoro non è per il lavoro, è la festa del lavoratore, cioè colui il quale a un certo punto dell'anno decide di avere una giornata a lui dedicata. Non è dedicata al lavoro, perché dedicata al lavoro sarebbe un discorso complesso socialmente, nel senso che il lavoro che abbiamo nella società capitalista è la reiterazione dello schiavismo di un tempo, semplicemente pagato malamente con un salario, e tanto malamente perché i capitalisti neoliberisti oggi dimostrano che possono con il fare del salario quello che vogliono, quindi non è una cosa acquisita dal lavoratore e un diritto del lavoratore, è un elemento di speculazione che il capitalista usa a suo piacimento a seconda dei periodi che si trasmettono storicamente. Quindi non festa del lavoro, ma festa del lavoratore. Del lavoratore, che è un altro, è un diritto che il lavoratore ha. Quello è un diritto, è la sua festa. Grazie. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io. Lavorare con lentezza, pezzo fenomenale, colonna sonora di un film altrettanto bello. E niente, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ci siamo arrivati con diverse voci di fanciulli, ma non solo, che ci hanno dato vari punti di vista sulla festa del lavoro, ma soprattutto a questo punto sulla festa dei lavoratori. Non è la festa del lavoro, perché sarebbe in effetti assurdo festeggiarlo, ma è la festa del lavoratore, della persona che quotidianamente si dedica a lavorare e a spendere il suo tempo, momenti che a volte non sono proprio dei migliori, come dire, soprattutto in questo periodo storico